快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 安德烈·博切利是意大利著名的跨界男高音歌唱家。下面我们将要听到的是他所演唱的威尔第的15首歌剧咏叹调，风格多样，难度极大，具有抒情性和戏剧性。博切利的演唱把不同人物的内心情感刻画得栩栩如生。下面请欣赏他的演唱，由祖宾梅塔指挥以色列爱乐乐团伴奏。 Figlio, prima d'amarti, non può frenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti, a te fallo, corro a morir, a te fallo, corro a morir, a te fallo.Tra poco col sangue vostro la spegnerò. Ero già figlio prima d'amarti, non può frenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti, a te. Consorte Thank you.

dolce del patrio sol, un regal certo sul crimpo sarti. Vizie, amori e le pompose feste, o vaglio omaggi a vezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi, tutto scorda per me. Qui presso a lei io rinascer mi sento, e dal soffio d'amor rigenerato scordo de gaudi suoi tutto il passato. Che disse vivere io voglio te fedele, e l'universo in me more, io vivo quasi in ciel, tal di che disse vivere io voglio a te fedele. Ah, sì, te l'universo in me more, io vivo quasi in ciel, io vivo in ciel dell'universo in me more. Io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in cielo. Oh mio rimorso infamia, io vissi in tal errore, ma il turpe sonno frangere il ver mi valerò. Per poco in seno acquetati, o grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice, questo un tal lo verò. O mio suor, infamia, ma se quest'anta la verò, si la verò, o mio lo sor, o infamia, ma se quest'anta, si quest'anta la verò, quest'anta, quest'anta la verò. Rimorso infamia, io vissi in tale errore, ma il turpe sonno a frangere, il ver mi valerò. Per poco in cielo acquetati, o grido, grido nell'onore, ma avrai sicuro vindice, quest'onta l'averò. O mio ossor, o infamia, ma se quest'onta l'averò, si l'averò. O mio ossor, o infamia, ma se quest'onta, si quest'onta l'averò, quest'onta, quest'onta l'averò. Udite or tutti del mio cor gli